Il duca di Gourmand non era affatto contento di queste offerte. Incerto se Ibsen e D'Annunzio fossero morti o vivi, vedeva già degli scrittori, dei drammaturghi venire in visita da sua moglie e metterla nelle loro opere. Chi appartiene al gran mondo tende a immaginarsi i libri come una specie di cubo cui sia stata tolta una faccia per consentire all'autore di farci entrare in gran fretta tutti quelli che incontra. Una cosa evidentemente sleale e degna di persone di scarsa levatura. Certo, non sarebbe male dargli un'occhiata di sfuggita, perché in questo modo, leggendo un libro o un articolo, si scoprono i retroscena, si vede cosa c'è dietro le maschere. Ma tutto sommato è meglio limitarsi agli autori morti. Il signor di Gourmands trovava assolutamente corretto solo il tizio che scriveva i necrologi nel Galois. Quello almeno si accontentava di citare il nome del duca al primo posto fra le personalità di rilievo particolarmente notate ai funerali dove egli aveva firmato il registro. Quando preferiva che il suo nome non figurasse, invece di firmare, inviava una lettera di condoglianze alla famiglia del defunto, esprimendo i sensi della sua più profonda costernazione. Se poi la famiglia in questione faceva pubblicare sul giornale «Fra le lettere ricevute citiamo quella del duca di Gourmand», eccetera, non era colpa del cronista, ma del figlio, del fratello, del padre della defunta, con i quali il duca, bollandoli come arrivisti, decideva subito di non avere più rapporti. Cosa che egli, non conoscendo il significato esatto di certe locuzioni, definiva «avere a che dire». Resta il fatto che i nomi di Ibsen e D'Annunzio e la loro incerta sopravvivenza incresparono le sopracciglia del duca, che non s'era ancora allontanato da noi tanto da non afferrare le svariate amabilità di Madame Timoleon da Moncourt. Era una donna incantevole, di un'intelligenza e di una bellezza così seducenti che una sola delle due qualità sarebbe bastata ad affascinare. Ma poiché, nata fuori dell'ambiente in cui ora viveva, non aveva aspirato dapprima che a un salotto letterario ed era stata via via, in modo esclusivo, l'amica, non l'amante, assolutamente, essendo di costumi purissimi, di tutti i grandi scrittori che le regalavano i loro manoscritti e scrivevano libri per lei. Una volta entrata, per caso, nel Faubourg Saint-Germain, vi aveva messo a profitto questi privilegi letterari. La sua posizione era tale adesso che non doveva dispensare altre grazie se non quelle profuse dalla sua presenza. Tuttavia, abituata un tempo a rendersi gradita con maneggi e servigi, perseverava in quella condotta ancorché non più necessaria. Aveva sempre qualche segreto di Stato da rivelarvi, un sovrano al quale presentarvi, l'acquerello d'un maestro di cui farvi omaggio. C'era, certo, in tutte queste inutili seduzioni un po' di falsità, ma facevano della sua vita una commedia di scintillante complicatezza ed era verissimo che dipendeva da lei la nomina di prefetti e generali. Mentre incedeva al mio fianco, la duchessa di Gourmand lasciava che la luce azzurra dei suoi occhi fluttuasse dinanzi a lei, ma indefinitamente, per eludere le persone con cui non voleva aver rapporti e di cui presagiva a volte da lontano lo scoglio minaccioso. Procedevamo fra una duplice siepe di invitati, i quali, sapendo che non avrebbero mai conosciuto Orient, volevano almeno mostrarla come una curiosità alle loro mogli. «Vieni, Ursule, svelta, vieni a vedere Madame de Gourmand che chiacchiera con quel giovanotto!» E ci mancava poco, era evidente, che salissero in piedi sulle sedie per vedere meglio come alla parata del 14 luglio o al Grand Prix. Non che il salotto della duchessa di Gourmand fosse più aristocratico di quello della cugina. Nel primo si incontravano persone che soprattutto a causa del principe non sarebbero mai state ammesse nel secondo. Mai, per esempio, la principessa avrebbe ricevuto Madame Alphonse de Rothschild, la quale, intima amica come la stessa Orient, di Madame de la Tremoille e di Madame de Ségane, frequentava assiduamente la duchessa. Analoga sorte toccava al barone Hirsch, che il principe di Galles aveva portato da Orient, ma non dalla principessa, alla quale non sarebbe piaciuto, nonché ad alcuni grandi personaggi bonapartisti o addirittura repubblicani che interessavano la duchessa ma che il principe, legittimista convinto, non avrebbe ricevuti per principio. Il suo antisemitismo, essendo anch'esso di principio, non cedeva davanti a nessuna eleganza, per accreditata che fosse, e se riceveva Swann, di cui era amico da sempre, anche se unico fra i Grammont lo chiamava Swann e non Charles, era perché, sapendo che la nonna di Swann, protestante sposata con un ebreo, era stata l'amante del duca di Berry, si sforzava ogni tanto di prestar fede alla leggenda che del padre di Swann faceva un figlio naturale del principe. Secondo tale ipotesi, d'altronde falsa, Swann, figlio di un cattolico a sua volta figlio di un borbone e di una cattolica, sarebbe stato in tutto e per tutto cristiano. «Come? Non conoscete queste meraviglie?» mi chiese la duchessa, alludendo al palazzo in cui ci aggiravamo. Ma dopo aver celebrato la magione della cugina, s'affrettò ad aggiungere che preferiva mille volte il suo umile buco. «Qui è stupendo per venirci in visita, ma morirei d'angoscia se dovessi fermarmi a dormire in una di queste stanze con tutta la storia che c'è passata. Mi sembrerebbe d'essere stata dimenticata, d'essere rimasta dopo la chiusura nel castello di Blois o di Fontainebleau o addirittura al Louvre, ed avere per unica risorsa contro la tristezza quella di dirmi che sono nella camera dove hanno assassinato Monaldeschi. Come camomilla è troppo poco. Toh, ecco Madame de Saint-Nouvel. Proprio stasera abbiamo pranzato da lei. Visto che domani a casa sua c'è la grande fiera annuale, pensavo che sarebbe andata a dormire. Ma già, lei non può perdere un solo ricevimento. Fosse stato in campagna, sarebbe saltata su una carretta pur di non farselo sfuggire. Quella sera, in realtà, Madame de Saint-Hubert era venuta meno per il piacere di non perdere una festa in casa d'altri che per assicurare il successo della sua, effettuare gli ultimi reclutamenti e passare sommariamente in rivista, in extremis, le truppe che il giorno successivo avrebbero dovuto compiere brillanti evoluzioni al suo garden party. Da alcuni anni, infatti, gli invitati ai ricevimenti Saint-Hubert non erano più gli stessi d'un tempo. Subissate di gentilezze dalla padrona di casa, le donne eminenti del Giro Grammont, allora così rade, avevano a poco trascinato con sé le loro amiche. Contemporaneamente, con un lavoro altrettanto progressivo, ma in senso inverso, Madame de Saint-Hubert aveva ridotto di anno in anno il numero delle persone ignote al mondo elegante. Una dopo l'altra s'era smesso di vederle. Per qualche tempo era stato in vigore il sistema delle infornate, che consentiva, grazie a ricevimenti sui quali si stendeva un velo di silenzio, di far venire i reietti a divertirsi fra di loro, ciò che dispensava dall'invitarli assieme alle persone di rango. Di che potevano lamentarsi? Non avevano forse panem et circenses, i loro bravi pasticcini e un buon programma musicale? Negli ultimi anni, perciò, in simmetria per così dire con le due duchesse in esilio che un tempo ai primi passi del salotto Saint-Hubert avevano visibilmente sostenuto come due cariatidi il suo vacillante fastigio, non si distinguevano più, frammiste al bel mondo, che due persone eterogenee: la vecchia Madame de Cambremer e la moglie di un architetto, una donna con una così bella voce che spesso non ci si poteva esimere dal chiederle di cantare qualcosa. Ma in quella casa non conoscevano più nessuno e sembravano, rimpiangendo le compagne perdute e rendendosi conto d'essere di troppo, sul punto di morire di freddo, come due rondini che non fossero emigrate a tempo. Così, l'anno successivo non furono invitate. Madame de Franquetot tentò di intercedere in favore della cugina che tanto amava la musica, ma poiché non riuscì ad ottenere per lei una risposta più esplicita delle seguenti parole: «Si può sempre venire ad ascoltare un po' di musica se ci si tiene tanto, non è mica un delitto». Madame de Cambremer ritenne che l'invito non fosse abbastanza caloroso e lo declinò. Di fronte a tale trasmutazione, operata da Madame de Saint-Hubert, di un salotto di lebbrosi in un salotto di grandame, ultima forma apparentemente super elegante che esso aveva assunta, poteva destare sorpresa che la persona in casa della quale si sarebbe svolta l'indomani la festa più brillante della stagione avesse avuto bisogno di venire a rivolgere, la vigilia, un supremo appello alle sue truppe. Il fatto è che la preminenza del salotto Saint-Hubert esisteva solo per coloro la cui vita mondana consiste esclusivamente nel leggere sul Figaro o sul Galois le cronache delle mattinee e delle serate, senza aver mai messo piede da nessuna parte. Per questi mondani che vedono il mondo filtrato attraverso il giornale, era sufficiente l'enumerazione delle ambasciatrici d'Inghilterra, d'Austria, eccetera, delle duchesse d'Uzès, di La Tremoille, eccetera, eccetera, per immaginare il salotto Saint-Hubert come il primo di Parigi, mentre era uno degli ultimi. Non che i resoconti fossero menzogneri. La maggior parte delle persone citate erano realmente presenti. Ma ciascuna di loro era venuta in seguito ad implorazioni, cortesie, servigi e con la certezza di concedere a Madame de Saint-Hubert un'immensa grazia. Simili salotti, più schivati che ambiti, e dove ci si reca, per così dire, in servizio comandato, illudono soltanto le lettrici di mondanità, che poi non fanno caso a una festa, quella sì davvero elegante, alla quale la padrona di casa, pur potendo disporre di tutte le duchesse, bramose d'essere fra gli eletti, ne invita non più di due o tre e non fa mettere sui giornali i nomi dei suoi invitati. Così queste donne, che disconoscono o disprezzano il potere assunto al giorno d'oggi dalla pubblicità, sono riconosciute eleganti dalla regina di Spagna, mentre restano sconosciute alla folla, dal momento che la prima sa chi sono e la seconda lo ignora. Madame de Saint-Hubert non era una di loro, e da brava ape operaia era venuta a fare incetta di invitati per il giorno dopo. Il signor di Charlus non figurava nel suo bottino, si era sempre rifiutato ad andare da lei, ma con tutta la gente con cui il barone era in rotta, Madame de Saint-Hubert aveva buon gioco ad addebitare la cosa al suo carattere. Certo, se non ci fosse stata che Orian, Madame de Saint-Hubert avrebbe potuto fare a meno di scomodarsi, già che l'invito era stato rivolto a viva voce e accettato, peraltro, con la buona grazia perfetta e ingannevole nel cui esercizio eccellono gli accademici, abilissimi nel lasciare il candidato commosso e convinto di poter contare sul loro voto. Ma non c'era lei soltanto. Il principe d'Agrigento sarebbe venuto? E Madame de Dufault? Insomma, per sorvegliare il raccolto, Madame de Saint-Hubert aveva ritenuto più opportuno muoversi di persona. Insinuante con gli uni, imperativa con gli altri, a tutti annunciava, con mezze parole, divertimenti inimmaginabili e irripetibili, e a ciascuno prometteva di fargli trovare a casa sua la persona che desiderava vedere o il personaggio che aveva bisogno di incontrare. Quella sorta di funzione di cui, come certe magistrature del mondo antico, era investita una volta all'anno, consistente nel dare l'indomani il più importante garden party della stagione, le conferiva una momentanea autorità. Le sue liste erano già belle chiuse, di modo che, mentre percorreva con passo misurato i salotti della principessa per far scivolare via via in ogni orecchio «Non dimenticatevi di me domani», assaporava l'effimera gloria di distogliere lo sguardo, pur continuando a sorridere se scorgeva una brutta donna da scansare o qualche nubiluccio che una vecchia amicizia di collegio aveva fatto ammettere in casa di Gilbert, ma la cui presenza non avrebbe portato nessun contributo al suo garden party. Con costoro evitava di parlare, per avere poi la possibilità di giustificarsi. Ho fatto gli inviti a voce, purtroppo non vi ho incontrato. In questo modo lei, semplice Saint-Hubert, selezionava con i suoi occhi scrutatori gli invitati di cui era composta la festa della principessa. E si sentiva, così facendo, né più né meno che una duchessa di Gaumont. A proposito di quest'ultima, va precisato che nemmeno lei era tanto libera quanto si potrebbe credere nel distribuire i suoi saluti, i suoi sorrisi. In parte, certo, quando li rifiutava, lo faceva di sua spontanea volontà. Mi annoia, diceva. Non sarò mica costretta ad andare avanti per un'ora a parlare della sua festa.